Amo la radio perché arriva dalla. Se rinasco, rinasco Cipolla, perché mi sembra che sia perfetta. C'è stato un licenziamento per giusta causa perché ho rubato, diciamo, dalla mensa aziendale. Non è il caso di raccontarlo. Vabbè, ma se erano i cracker, Falasca. Poi è noi donne che abbiamo le nostre borse di Mary Poppins, dove dentro ci possiamo mettere tante. Posso mettere anche il fruttarolo dentro la mia borsa? Lo porto a casa. Sì, esatto, anch'io non ho un udito perfetto. Mm-hmm. Riesco a sentire comunque Radio 24. Bravo. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Hai fame? Sì, avranno qualcosa che posso mangiare. Che cosa vuoi dire? Sono vegetariano. Sai che cosa? Non mangio la carne. Come fai a non mangiare carne? Non la mangio. Niente carne? Niente carne. Bistecca? No. Pollo? No. E neanche la salsiccia? No, no, niente salsiccia, non mangio carne. Che hai, qualche malattia? Invece, persino Alain Ducasse, chissà se l'ho pronunciato correttamente il mio francese, fa acqua da tutte le parti, perfetto. Mi correggerai. Pluristellato chef francese naturalizzato monegasco ha deciso di togliere la carne dalla carta del menù del ristorante, del suo ristorante. La decisione è stata presa proprio nell'imminenza della riapertura del suo rinomato ristorante presso il Palace Plaza Athénée di Parigi ed è destinata, già lo immaginiamo, a fare un po' discutere. Però, cara mia Deborah, Ducasse la sa lunga, non sarebbe arrivato fino a lì, eh? E ha sicuramente intercettato un fenomeno che in questi anni è in continua crescita. Vegetariani e vegani aumentano in tutto il mondo e anche in Italia un punto in percentuale ogni anno. Come abbiamo detto nel nostro lancio del GR, secondo il rapporto Eurispes sarebbero il 7% della popolazione e quindi più di 4 milioni di persone, di italiani che hanno fatto questa scelta. E appunto per questo l'attenzione proprio a queste scelte è sempre maggiore insieme a tutto ciò che riguarda gli stili di vita. Pensiamo all'interesse che ha suscitato Sana, il Salone Internazionale del Biologico e del Naturale, che si conclude proprio oggi a Bologna. Però, Nico, i conti non tornano. È vero. L'abbiamo detto molto chiaramente prima. Ti ricordi quest'estate quando abbiamo parlato della distruzione obbligata delle pesche nettarine? Certo, me lo ricordo molto bene. Insomma, i consumi ortofrutticoli sono in calo, secondo Coldiretti addirittura del 30% negli ultimi 15 anni. Mi viene spontaneo chiedermi, allora, vegetariani e vegani che cosa consumano? Allora, come avrete capito, care amiche, cari amici, ma ci state già chiamando al nostro numero verde, sì. 800 24 00 24, e ci state già scrivendo. Oggi vogliamo parlare di chi decide di eliminare la carne, ma anche il latte, le uova dalla propria dieta e di diventare vegetariano o vegano. Le ragioni, lo sappiamo, sono tante, diverse, etiche, salutiste, ambientali. Tra l'altro, pensate che c'è una scienza interdisciplinare relativamente recente, si chiama ecologia della nutrizione, che prende proprio in esame tutte le componenti della catena alimentare e ne valuta gli effetti secondo quattro punti di vista: la salute, l'ambiente, la società e l'economia. Deborah, quindi allora possiamo dire che copia un po' anche lei Cuore Denari. Guarda, da un anno a questa parte di scopiazzamenti ne stiamo intercettando molti. E quindi vi invitiamo a parlare con noi proprio del vostro stile alimentare. Cosa chiediamo agli ascoltatori? Siete onnivori? Sì. Vegetariani? Vegani? Latto-ovo vegetariani? Flexitariani? Ovvero vegetariani flessibili, cioè consumate più pasti a base di alimenti di origine vegetale, limitando però sensibilmente carne, pesce, latte, latticini, uova e tutti i prodotti di origine animali? 800 24 00 24, raccontateci le vostre scelte. E allora, se avete ridotto drasticamente il consumo di alcuni alimenti di origine animale, lo avete fatto perché spinti da ragioni di gusto o di salute, o invece per ragioni etiche o anche per ragioni economiche? 800 24 00 24, commentate con noi la scelta che avete fatto e che ripercussioni ha avuto sul vostro bilancio familiare. Non consumando più carne, avete risparmiato oppure il portafoglio vegetale è ugualmente significativo? E la vostra salute, le vostre scelte, quali effetti hanno avuto? Ci scrive una già al 349-238-66 un'ascoltatrice: sono vegetariana da 25 anni, sto pensando al veganesimo, comunque ho una salute di ferro, non mi ammalo mai, colesterolo basso, ferro alto e coscienza a posto. Quindi raccontateci che ripercussioni hanno avuto le vostre scelte alimentari sul vostro stato generale di benessere. Iniziamo a salutare i nostri esperti. Certo. Per la parte del cuore, sì, abbiamo in linea con noi una new entry. Il dottor, benvenuto allora. Sì, il dottor Ettore Pelosi, che è medico nutrizionista e aggiungiamo anche maratoneta. Buongiorno dottor Pelosi. Grazie, buongiorno. Buongiorno. Allora ti rispondo con una new entry anche di denari questa mattina. Io saluto Pierluigi Romiti, direttore di Fedagri Conf Cooperative, che è l'organizzazione delle cooperative del settore agroalimentare, detta in maniera un po' superficiale, un mondo molto articolato. Romiti, buongiorno e benvenuto anche a lei. Buongiorno a tutti. Ecco. Buongiorno e benvenuto. Allora, vegetariano, iniziamo proprio dalla parola, significa attivo, vigoroso, perché deriva dal latino vegetus, e stando ai dati di numerose ricerche, i vegetariani, o meglio chi segue diete vegetariane correttamente pianificate, questo voglio sottolinearlo, vive meglio e più a lungo, perché la conferma arriva anche da uno studio pubblicato su JAMA che ribadisce i risultati di diverse ricerche. Una dieta vegetariana riduce il rischio di incorrere in alcune patologie croniche gravi, come ad esempio la sindrome metabolica di cui abbiamo parlato tante volte, il diabete e in generale le malattie dell'apparato cardiovascolare. Insomma, sembra che la dieta vegetariana faccia bene al cuore. Allora, tutto sommato, verrebbe da dire, basterebbe questo per spingere ciascuno di noi a rivedere un po' la composizione della propria dieta. Ma insieme a Deborah vogliamo sottolinearlo, lo diciamo subito in apertura. Certo, brava. Non vogliamo convincere nessuno. No, giusto? Facciamo delle riflessioni su un fenomeno molto importante e molto consistente. Il nostro obiettivo è solo quello di dare informazioni a chi decide o ha deciso di modificare il proprio stile alimentare. Insomma, vogliamo con l'aiuto dei nostri esperti fare le cose per bene. E ci aiuterà oggi il dottor Pelosi. Dottore, partiamo da una definizione: vegetariani e vegani non sono la stessa cosa. Molti vegetariani diventano poi vegani. Sì, bisogna fare allora una puntualizzazione intanto sul termine. Vegetariano è un termine molto ampio che include un gruppo di persone piuttosto eterogeneo rispetto alla loro scelta alimentare e intende soggetti che si avvicinano ad una dieta su base vegetale. All'interno del gruppo dei vegetariani, vegetariano è un termine che è nato nel XIX secolo, precedentemente c'era il termine pitagorico per indicare questo gruppo di persone, vi stanno due gruppi importanti che sono i latto-ovo vegetariani e i vegani. Latto-ovo vegetariani sono soggetti che accanto ad una dieta su base vegetale continuano ad assumere anche latte, latticini e uova. Alcuni di questi poi a loro volta si suddividono rinunciando o alle uova o al latte e allora diventano latto vegetariani o ovo vegetariani. I vegani sono coloro che invece rinunciano a tutti gli alimenti di provenienza animale, quindi latte e latticini, le uova, ma anche il miele per esempio. Dottor Pelosi, abbiamo cercato anche di dare una definizione, mi dica se l'abbiamo data corretta, dei flexitariani. È una via di mezzo tra l'onnivoro e il vegetariano? È un vegetariano flessibile, possiamo definirlo così? Possiamo anche definirlo così. Il flexitariano in realtà è un onnivoro, all'interno dei flexitariani ci sono anche io per esempio, e è colui che tendenzialmente segue un'alimentazione su base vegetale e introduce sporadicamente durante l'arco del mese o della settimana l'assunzione di proteine di derivazione animale, che non sono necessariamente solo latte e latticini, ma possono essere anche carne e pesce. Sono in aumento vegetariani e vegani, abbiamo citato i dati. Secondo lei come spiega, dottor Pelosi, questo fenomeno? Una moda, un bisogno di salute, una sensibilità etica nei confronti dell'ambiente o è la crisi, secondo lei, ad aver anche messo mano alla dieta? Io onestamente non imputerei né alla moda né alla crisi, forse è diventata una moda un pochino di più parlarne. Secondo me c'è un aumento nelle persone della sensibilità verso sé e il non sé, cioè a dire, secondo me le persone sono diventate più sensibili verso la loro salute e sono contemporaneamente diventate anche più attente a quelle che sono le ricadute delle loro scelte, in questo caso alimentari, sull'ambiente che le circonda. Essere vegetariano vuol dire ridurre profondamente il nostro impatto sull'ambiente che ci circonda e quindi essere più sensibili, come diceva l'ascoltatrice che ha inviato poco fa l'SMS, sono in pace con me stessa e con l'ambiente che mi circonda. Scelte etiche dunque fondamentalmente, ma che poi, Nicoletta, naturalmente hanno ripercussioni economiche. Questo che stiamo trattando questa mattina è indubbiamente un tema molto interessante anche dal punto di vista dei denari, perché le famiglie italiane, anche grazie alla nostra dieta mediterranea, consumano tradizionalmente con piacere frutta e verdura e oggi sempre di più grazie alla scelta che stiamo commentando di cambiare lo stile di vita fino alla conversione totale al vegetarianismo e al veganismo. Ma certo che i conti non tornano. Abbiamo ampiamente documentato e raccontato, molti ascoltatori lo ricorderanno, la scorsa estate in alcune puntate, come i produttori italiani dell'ortofrutta siano in grande difficoltà, tanto che hanno organizzato anche delle manifestazioni di protesta a Roma davanti a Montecitorio. Ti ricordi, no, Nicoletta? Assolutamente sì, ricordo i danni provocati dal maltempo che ha colpito duramente le campagne. Esatto, è stata un'estate terribile da questo punto di vista, che peraltro adesso si ripercuoterà anche nella vendemmia, e nelle ultime due settimane a tutto questo si è aggiunto anche l'embargo russo, che a questo punto sta compromettendo in misura molto seria la produzione ortofrutticola italiana, e a rimetterla in sesto non possono certo contribuire in maniera significativa i vegetariani o i vegani. Allora, Pierluigi Romiti, noi così abbiamo un po' commentato, i conti non tornano, come si conciliano questi due fenomeni? Voi come operatori del settore come li osservate? Intanto io comincerei col dire che in realtà io sono onnivoro, quindi Netflix né vegano, tariffa base, diciamo. Tariffa base mi piace. Proprio ecco, normodotato, chiamiamo un po' così. Esatto, con questo ovviamente si sta scherzando, insomma, ben venga anche qualsiasi fenomeno, sia esso moda o comunque filosofia che sollevi un po' i consumi dei nostri prodotti dell'ortofrutta. È vero, c'è un aumento, una tendenza a consumare, diciamo, una tendenza a convertirsi, chiamiamolo così, al veganesimo o ad essere vegetariani, però ovviamente è un fatto di proporzioni, cioè questo fenomeno non influisce in maniera determinante sul dato complessivo dei consumi. Certo. Purtroppo in 10 anni circa, 10-15 anni, noi abbiamo ridotto sensibilmente i consumi di ortofrutta in Italia ma anche in Europa. Se partiamo ad esempio da un dato, e cioè la dose consigliata, la razione consigliata dall'OMS, che è circa 400 grammi al giorno di frutta e verdura, bene, dovete sapere che all'incirca 10-15 anni fa in Italia noi consumavamo oltre 700 grammi al giorno di frutta e verdura. Oggi purtroppo, seppur siamo ancora al di sopra della soglia dell'OMS, siamo intorno ai 430-440 grammi al giorno consumato. E voi avete anche osservato che praticamente questo trend si è manifestato anche a causa dei lavori fuori casa, no? Quindi non si consuma più in famiglia il pranzo, poi fondamentalmente perché a cena ancora magari ci si riunisce, quindi questo fondamentalmente ha provocato questo drastico calo del consumo di ortofrutta in Italia, Romiti. Beh sì, in Italia e anche in Europa, perché addirittura in Europa siamo al di sotto della soglia consigliata. È chiaro che gli stili di vita, i consumi cambiano con gli stili di vita. Se si consuma di più fuori casa è più difficile consumare ortofrutta fresca. Infatti, per esempio, se andiamo a vedere i dati, il calo maggiore lo abbiamo proprio nel fresco, ma non solo di ortofrutta, ma anche di pesce, latte, carne, proprio il fresco quello che soffre di più, perché lo stile di vita è diverso e quindi si va più sui preparati, sui conservati, trasformati o surgelati in generale, questo va da sé. A scapito di quali prodotti è avvenuto questo tracollo, Romiti? Abbiamo rammentato prima la questione che ci aveva anche provocato molto dispiacere quando ce l'avevano raccontato in diretta, della distruzione di tonnellate di pesche nettarine, ma a parte questa frutta, questo tipo di frutto, quali altri prodotti vivono proprio questa crisi del consumo? Rischiano di fare la stessa fine, insomma. In realtà la crisi non ha riguardato solo pesche e nettarine, ma purtroppo tutta la frutta estiva, dalle susine fino alle angurie e ai meloni purtroppo, e siamo molto preoccupati per i prodotti che sono in campo in questo momento, che comunque stanno per affacciarsi sul mercato. Parliamo di kiwi, mele, pere, agrumi, ma anche dell'uva, insomma. Sicuramente questo non sarà ricordato come un anno felice purtroppo dall'agricoltura. 800 24 00 24, se volete intervenire, andiamo subito alle telefonate dei nostri ascoltatori. Che Deborah, sono già tantissime e questo ci fa molto piacere. Andiamo subito con l'Anconetana, cominciamo con Raffaella stamattina, ma non per questioni territoriali, la chiamiamo, per preferenze territoriali, ma solo perché si è prenotata appunto tra i primi ascoltatori all'800 24 00 24. Raffaella, benvenuta. Buongiorno. Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Dunque, io avrei tante cose da condividere, perché giustamente, allora, al giorno d'oggi noi ci siamo appunto riflettendo su, leggendo queste letture, insomma, così abbiamo capito che forse per la nostra salute questa alimentazione è da rivedere un pochino. Da rivedere, esatto. Però ci sono tante difficoltà, tra cui reperire frutta italiana, perché la frutta viene non si sa da dove, i prodotti vengono da 200 chilometri, quindi con i gruppi di acquisto solidale si cerca di reperire frutta e verdura a chilometro zero, insomma, controllata, quindi sono tanti problemi che ci sono. E diciamo il nostro problema, essendo che abbiamo messo su famiglia, abbiamo tre bimbi, è quello appunto di integrare la loro dieta, nel senso che la cultura che abbiamo oggi è quella di che un bambino debba mangiare non si sa quanti quintali di carne, o insomma, nel senso, ecco, quindi noi cerchiamo col cereale, insomma, con i legumi appunto di integrare questa cosa, e comunque la spesa non è diminuita. Quindi questo è un dato molto, insomma, nel senso che appunto fare questa alimentazione alla fine è diventato quasi più costoso. Sì, ma anche proprio a livello di tempo, cioè, ecco, diciamo che richiede abbastanza tempo, quindi comunque sia, ecco, magari ci vorrebbe anche un aiuto da parte appunto della distribuzione. Comunque sta avvenendo questa cosa, c'è stato un grosso cambiamento. Sì, come adesso per esempio, se lei va nei supermercati, nei grandi centri commerciali, trova magari tutti i corner, gli angoli dedicati a chi ha qualche problematica di alimentazione, no, Nicoletta? Assolutamente, prodotti per celiaci. Esatto, quindi lei dice magari insomma, senza si lievito. Potrebbe fare un po' di più anche per chi fa delle scelte appunto al vegetale, al verde in questo senso. Raffaella porta sul tavolo della discussione due aspetti: la difficoltà a trovare prodotti di casa nostra a chilometro zero, e ci racconta anche della sua scelta alimentare che coinvolge necessariamente i suoi figli, tre bambini. Raffaella, il dottor Pelosi la batte perché ne ha addirittura quattro e quindi rientra nel gruppo delle famiglie numerose. Tema a cui noi abbiamo dedicato una puntata che ci è piaciuta molto. Esatto, la dottor Pelosi, tre bambini, quattro bambini, i genitori seguono un'alimentazione vegetariana, mi sembra, Raffaella, o vegana? Raffaella? Vegetariana, non troppo ristrettiva. Vegetariana. Dottor Pelosi, commentiamo, perché poi passiamo al nostro ospite per capire se la scelta di Raffaella per rifornire la è corretta casa. O se può dare qualche idea in più. Dottor Pelosi, bambini? Allora, i bambini assolutamente possono essere avviati ad un tipo di alimentazione vegetariana o vegana. L'importante è che abbiano superato i 2 anni di età. Fine 2 anni di età è bene stare molto attenti con l'assunzione da parte dei bambini delle fibre che possono ridurre l'assorbimento dei micronutrienti e quindi creare degli stati di malnutrizione. Mi spieghi bene questo concetto. Quando dite l'assunzione eccessiva di fibre, cosa vuol dire? Andiamo nelle quantità e cerchiamo di visualizzare la cosa. Perfetto. Un'alimentazione vegetariana e vegana, a differenza di un'alimentazione onnivora, si caratterizza di solito per un'assunzione di alte quantità di frutta, verdura, ma anche cereali integrali, legumi e frutta secca. Sì. E questo comporta complessivamente un'assunzione di fibra vegetale nettamente superiore alla norma. Ora, la fibra vegetale è estremamente salutare nel caso del soggetto adulto, mentre nel caso dell'intestino del bambino al di sotto dei 2 anni può determinare una riduzione dell'assorbimento di alcuni minerali e di alcune vitamine che sono fondamentali per la sua crescita. Quindi in questo caso per un bambino al di sotto dei 2 anni si può fare alimentazione vegetariana e vegana, bisogna ridurre, evitare i cereali integrali e i legumi che sono necessari per la completezza delle proteine all'interno della dieta stessa devono essere somministrati in piccole dosi, vale a dire nella dose di un cucchiaio per pasto. Grazie, preciso, puntuale, dottor Pelosi. Si vede che è un bravo medico, ma soprattutto certo, che è un papà di 4 bambini. No, è il per tema. Rispondere a Raffaella, se posso certo concludere. Lei discuteva sul problema, uno, del trovare con una certa facilità la reperire prodotti a chilometri zero. È una cosa questa molto positiva, nel senso è fondamentale che chi si avvicina ad un'alimentazione su base vegetale cerchi di assumere frutta e verdura che siano locali, di stagione e quando è possibile anche biologiche. Sì, in ma realtà, questo vale un po' per tutti, dottor Pelosi. Assolutamente. Per la reperibilità ci sono i mercati della Coldiretti, ci sono questi gruppi di acquisto solidale. Dopo li avremo, tra l'altro, grazie per averlo segnalato, dottor Pelosi. E poi ormai in ogni grande supermercato ci sono dei piccoli reparti all'interno delle quali, oltre che i prodotti legati ai cereali e ai legumi, si trovano anche prodotti freschi, locali, biologici. No, no, tra l'altro, Romiti, ha sentito che bella pubblicità che vi ha che fatto Pelosi? Spottone. Ma io in realtà vorrei fare qualche precisazione, perché in Italia, purtroppo, sentendo anche la nostra Raffaella, si sta diffondendo una psicosi riguardo ai prodotti agroalimentari che va un po', come dire, va un po' combattuta. Psicosi, allora, in che senso? Che sembra che arrivi tutto dall'altra parte del pianeta. Beh, guardi, lei ha ragione. Solo. Io ieri sera mi sono vista la trasmissione Petrolio su Rai 1 di Duilio Gianmaria, non so se anch'io Nicoletta l'ha vista. Vedi? Cioè, voglio dire, con tutto il bello, siamo circondati dal mare e pare che portiamo praticamente dall'estero oltre il 90% del pesce che consumiamo, per cui magari un po' come inchieste giornalistiche esageriamo anche qualche volta, però io non penso che abbiano mentito Romiti. Quindi qualche volta le psicosi un pochino sono giustificate, pur condividendo anche il suo sdegno, sì, a sentire certo tutto questo. Che dice? No, non è uno sdegno, è assolutamente un po', bisogna rispondere. No, ma mi rendo conto che lei, essendo un operatore del settore, dice ma cappero. No, guardi, le do un numero, noi produciamo 20 milioni di tonnellate di ortofrutta, tanto per capirci. Ma 20, mi lasci ferma, 20 milioni di tonnellate, ecco, in mente? Sì, allora, mi lasci dire una cosa, che dopo aver riempito il mercato italiano con questa ortofrutta, noi il 50% di questa la esportiamo, quindi io non vorrei che magari dall'altra parte, in qualche altro paese, ci fosse una psicosi inversa. No, però insomma dobbiamo, che importa il prodotto italiano. Poi, ecco, quindi volevo dire alla signora Raffaella, intanto se si collega al nostro sito lì troverà tutte le informazioni dove sono le nostre cooperative, dove ci sono gli spazi aziendali, dove ci sono i nostri negozi cooperativi, dove troverà sicuramente tutto prodotto italiano, prodotto tra l'altro in cooperativa. Sul chilometro zero va benissimo, ma il chilometro zero è una modalità di vendita, e cioè una modalità di vendita che va dal campo immediatamente al consumatore. Non è, è una modalità di vendita, non è sinonimo di qualità o sinonimo di salubrità. Si fermi lì, Romiti, perché le facciamo commentare ulteriormente questo aspetto. Abbiamo adesso l'incombenza, che è quella con i mercati. Eccolo qua. E poi torniamo invece sui mercati, magari dell'ortofrutta, che sono molto, molto interessanti questa mattina per gli ascoltatori. quando vedo maturare i pomodori, dico pensa tu cosa sarebbe fare. Ed eccoci, siamo tornati insieme, bentornati anche a voi. Noi oggi stiamo parlando del vegetariani, dei vegani, stanno aumentando. Vogliamo anche però portare naturalmente l'attenzione sull'utilità dal punto di vista anche della nostra salute di consumare frutta e verdura, le famose 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Non stiamo facendo delle scelte, non vi cerchiamo di convincere di diventare né vegetariani né vegani, né stiamo dicendo che la dieta mediterranea non va bene, anzi stiamo solamente facendo delle riflessioni generali su chi ha scelto di modificare il proprio stile alimentare. Perché lo facciamo? Perché il popolo dei vegetariani e dei vegani aumenta, anche l'attenzione, no, delle persone sempre più attente allo stile alimentare di consumare frutta e verdura, ma i conti non tornano perché come abbiamo visto il consumo dei generi dell'ortofrutta continua a scendere. Ne stiamo parlando con due esperti, uno dal punto di vista della cuore, della salute, il dottor Ettore Pelosi, che è una new entry come dicevamo, ma una new entry anche il dottor Pierluigi Romiti, che ci accompagna nella parte che relativa racconta, ai denari. Esatto, un po' come stanno andando questi prezzi. Tra l'altro, sentendo la canzone dei pomodori di Gino Paoli, mi veniva in mente quello che mi ha raccontato in questi giorni Nicoletta, non te l'ho raccontato a microfoni spenti, un mio amico australiano Greg, che torna peraltro oggi in Australia, è andato via. Ah, me ne hai parlato di Greg? Sì, Greg è un nostro amico ed era molto colpito dal costo molto basso al chilogrammo del prezzo del costo dei pomodori praticamente, perché in Australia invece loro pagano qualcosa come $10 al chilo e addirittura di qualche volta non li compra. Certo. Quindi per dire un po' anche le proporzioni, noi magari sembra che non riusciamo a fare la spesa perché il budget per frutta e verdura è molto alto per una famiglia media, e questo me lo raccontavi tu, e invece vedi che in altre parti d'Italia addirittura è proibitivo il consumo dell'ortaggio più basico, più banale. Dottor Pelosi, in linea per lei c'è Salvatore da Genova che ci segnala una sua preoccupazione riguardo alla scelta della figlia di diventare vegetariana. Buongiorno Salvatore, ho anticipato un po' la sua domanda, benvenuto. Bene, grazie di darmi la possibilità di avere una risposta. Esattamente. Io ho una bambina di 16 anni che ha deciso all'improvviso di fare una dieta puramente vegetariana, non fa altro che mangiare solo verdure e frutta, e io volevo solamente sapere cosa comporta a livello proprio di salute. Certo. Grazie, cioè, grazie Salvatore. La sua domanda è molto importante perché, dottor Pelosi, il vegetariano vegano fai da te potrebbe andare incontro a delle carenze, allo stesso proprio modo di chi segue una dieta per perdere peso senza consultare il proprio medico. Vuole dare un aiuto a Salvatore e rispondere quindi ai tanti ascoltatori che ci stanno inviando dei messaggi segnalandoci che stanno accarezzando l'idea di abbracciare una scelta vegetariana, ma vogliono capire come va fatta, e soprattutto noi abbiamo sottolineato che i vantaggi ci sono se la dieta è equilibrata, no? Una dieta vegetariana fatta per bene. Dottor Pelosi. Allora, io per rispondere a Salvatore, prima di tutto e a tutti gli altri ascoltatori, prima di tutto cercherei di guardare con occhio benevolo questa scelta. Diventare vegetariani è sempre l'espressione di una grande sensibilità della persona che decide di farlo. Per diventare vegetariani si fanno delle rinunce, perché si rinuncia spesso a delle cose che ci piacciono molto nell'ambito dell'alimentazione di tutti i giorni, e si sta abbracciando una scelta che dal punto di vista salutistico sicuramente è positiva. Nel momento in cui la dieta viene fatta in maniera fai da te, senza essersi documentati o senza aver chiesto spiegazioni ad un esperto del settore, si può incorrere in alcuni errori. Adesso Salvatore sottolineava che la figlia ormai mangia solamente frutta e verdura. Naturalmente bisognerebbe scendere nei particolari di questa affermazione ed andare a verificare realmente qual è il tipo di alimentazione che segue la figlia di Salvatore. Sta di fatto che l'eliminazione di per sé della carne e del pesce dall'alimentazione deve essere seguita dall'introduzione e dall'aumento nella nostra dieta di tutto un altro gruppo di alimenti. Che sono? Che sono i legumi, la frutta secca e l'aumento naturalmente del consumo della frutta e della verdura. Ora, in questo tipo di scelta c'è sempre un risvolto molto positivo. È evidente che se invece diventare vegetariani vuol dire sostituire la carne e il pesce con il formaggio, questo allora può portare sicuramente a dei risvolti negativi. Perché un po' il rischio è di sostituire la carne e il pesce con il formaggio e quindi assumerne in una quantità troppo elevata e arricchire inutilmente la dieta di troppi grassi. Questo è il messaggio. Quindi, saturi che sono poi legati allo sviluppo di malattie cardiovascolari e sindrome metabolica. Allora, Deborah, quindi questo è un po' l'indicazione per fare un passaggio che sia un passaggio corretto, equilibrato. Esatto. Attenzione, ricordate che non basta comunque togliere la carne e il pesce per avere quei vantaggi di cui le ricerche parlano. Speriamo di aver rassicurato Salvatore per la sua bambina di 16 anni, che insomma grandicella, Salvatore, quindi magari ragionate insieme un po' di questa scelta, se la faccia un po' argomentare da sua figlia, poi magari ci racconti un po' che cosa le ha spiegato, che cosa c'è alla base di questa scelta. Speriamo che non ci sia una, come dire, volontà di dimagrire magari un po' troppo in fretta, perché qua sarebbe un'altra questione, Nicoletta. Assolutamente. Allora andiamo alle di nuovo questioni economiche, fra un po' dobbiamo ritornare invece a sentire, a dare la linea alla regia per i suggerimenti perché in viaggio, ma un commento di Gianni da Latina lo raccogliamo volentieri, poi lo giriamo a Romiti del settore della cooperazione agricola. Gianni, buongiorno. Sì, buongiorno e grazie dell'opportunità. Lei mette il dito in una piaga, tra l'altro, già la vedo. Sì. Guardi, io sono molto vicino al mondo agricolo per questioni di lavoro ed è proprio di questi giorni, faccio un esempio, alla produzione i peperoni, prima scelta, parliamo di 50 centesimi, supermercato 2,70 euro, 2,80 euro. Ora, non so se voi siete al corrente, comunque la grande distribuzione spesso ha delle sue piattaforme di raccolta, per cui gli agricoltori spesso lo conferiscono lì e da lì finisce sul banco. Ora, questa sperequazione di 5 volte il prezzo, mi sembra che siamo in mercato libero, tutto ma quello sì, che vi pare, mettiamoci tutta la questione della filiera, Gianni, che conosciamo bene, abbiamo commentato anche negli anni passati con Salvadanaio, lo fa tante volte anche Sebastiano Barisoni a Focus Economia, dal campo al banco del supermercato bisogna fare un po' di strada, magari questi prodotti, che ne so Nicoletta, che consumiamo qua a Milano arrivano dalla Sicilia, c'è tutto il tragitto da fare, remunerare tutte le persone coinvolte nel processo di trasformazione dei prodotti, Romiti, problemi che conoscete molto bene e che però evidenziano la sproporzione che c'è. Sapete bene appunto che gli agricoltori sono proprio, come dire, strozzati, no? Quando si tratta di individuare il prezzo alla produzione, poi quando arrivano sul banco del supermercato lievitano. Esatto, e chi remunerano non si sa questi prezzi. Romiti? Sì, è vero, il radioascoltatore ha messo il dito nella piaga, però è anche vero che questa è una questione molto molto complessa e che non va affrontata con superficialità e leggerezza, e ci vorrebbero veramente ore per dare una risposta a questo tema che ha posto l'ascoltatore. L'unica cosa che posso dire è che è vero, probabilmente ci sono in atto dei fenomeni di speculazione lungo la filiera. È vero che a volte qualcuno se ne approfitta di questi passaggi che magari fa il prodotto dal campo alla tavola, però è anche vero che il mondo agricolo deve riuscire a dare una risposta, il mondo produttivo, lui stesso deve riuscire a dare una risposta. Per noi chiaramente questa risposta si chiama aggregazione, si chiama cooperativa, e cioè che cosa fa normalmente una cooperativa? Cerca di aggregare i singoli produttori, avere una massa critica tale da saltare alcune fasi della filiera e riuscire ad avere un potere contrattuale, avere un potere contrattuale diverso rispetto alla GDO, che purtroppo, come noi sappiamo, ha un potere enorme, perché chiaramente stiamo parlando di però è anche vero che qualche insegna della grande distribuzione adesso si rivolge anche ai produttori locali. Lo fa il mondo della Coop, per esempio, e quando, quindi ecco, anche loro un pochino stanno sensibilizzandosi sempre di più rispetto a questi problemi, per cui comunque insomma noi oggi li abbiamo risollevati di nuovo, sta anche a noi scegliere possibilmente il prodotto magari dell'agricoltore del posto, anche se andiamo al supermercato, ed evitare, io torno sempre su quel cavallo di battaglia, di comprare le fragole che arrivano dalla Spagna a Natale. Ecco qua, allora noi dobbiamo salutare adesso Romiti. Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti, alla grazie. Prossima puntata. Cuore e denari. Fermi, polizia vegana, polizia vegana. Oh, Ingram, Ti dichiaro in arresto per infrazione vegana. Codice numero 827. Assunzione di crema di latte. Stronzate! Niente dieta vegana, niente poteri vegani. Ma è solo la mia prima infrazione, non ne sono concesse tre. Leggi. Alle 12.27 del primo febbraio ha ingerito consapevolmente del gelato. Il gelato non è vegano. Latte e uova, idiota. Il 4 aprile 19.30 hai passeggiato con pollo alla parmigiana. Perché non è vegano? Raggio dei veganizzanti. A Corre Denari oggi stiamo parlando di scelta vegetariana e di scelta vegana. Lo facciamo con il dottor Pelosi, che è in linea con noi e con cui vogliamo entrare un po' negli aspetti pratici. Insomma, dottor Pelosi, carne e pesce, lo sappiamo, forniscono le proteine nobili, che per la loro funzione sono giustamente un po' rappresentate come i mattoni del corpo umano, dato che sono la struttura portante di cellule, enzimi, ormoni del nostro organismo. Quindi non si può fare a meno di loro. Per questo chi elimina le proteine animali deve sostituirle. Qui, dottor Pelosi, ci vengono in aiuto i legumi, ma da soli non bastano, non ce la fanno. È corretto? Ma io cercherei di sfatare alcuni totem che non sono completamente corretti. La proteina per definizione perfetta per l'uomo è quella dell'albume d'uovo. Ora, rispetto a questa proteina, ci sono numerosi cibi vegetali che hanno le stesse caratteristiche. E mi sto riferendo alle proteine di alcuni pseudocereali, che sono il grano saraceno, la quinoa, l'amaranto, alle proteine della soia. Quindi, innanzitutto, bisogna partire dal presupposto che non sono solamente le proteine animali quelle che sono perfette per l'alimentazione umana. Anzi, se si va a vedere, la carne è per il 90% simile alle proteine dell'uovo. E in seconda battuta... Che è il nostro must, l'albume d'uovo. Tra l'altro lo vendono ormai, anche vendono gli albumi d'uovo in confezione al supermercato. Perché ha detto ahimè? Perché io sono... Arriva da produzioni intensive. Bravissima, io sarei per un'alimentazione di prodotti basata su prodotti che derivano direttamente dalla natura come ce li fornisce, cioè sui cereali integrali, sui legumi, sulla frutta e la verdura, sui semi oleaginosi, senza il passaggio di trasformazione a cui vengono sottoposti per i problemi noti della loro conservazione e quindi della loro poi distribuzione di massa. Quindi, tornando al nostro grano saraceno, all'amaranto, alla quinoa, il discorso è che quando si pensa alle proteine vegetali tendiamo sempre esclusivamente a pensare al legume, ma in realtà le fonti di proteine vegetali sono tantissime, ripeto, ce ne sono di altrettanto valide rispetto all'albume d'uovo, che è un po' il must, e ce ne sono di meno valide che però unite con gli altri alimenti tipici dell'alimentazione vegetariana finiscono col fornirci un'alimentazione completa. E poi c'è un altro discorso, c'è il discorso legato al fatto che in circolo l'uomo ha un pool amminoacidico che consente il normale turnover delle proteine muscolari e dei tessuti. Questo pool viene continuamente rinnovato di pasto in pasto, quindi non è necessario che in tutti i pasti il vegano assuma i cereali con i legumi per completare il loro quoziente proteico. È importante che nell'arco della giornata l'alimentazione sia varia e che le proteine, e in particolare gli aminoacidi essenziali, vengano assunti attraverso i cereali, attraverso i legumi, ma anche attraverso la verdura, che ne è ricchissima, oppure la frutta secca. Ecco, conoscere questi meccanismi permette di variare la nostra dieta e quindi di non pensare solo che per sostituire le proteine animali si debbano sostituire solamente con l'abbinamento di cereali e legumi. Come il dottor Pelosi ci ha spiegato, parleremo naturalmente col dottor Pelosi, che ho anticipato è un maratoneta, per rispondere a chi ci sta chiedendo, ma noi l'avevamo già previsto anche in scaletta, se la dieta vegetariana vegetariana o la dieta vegana si concilia con l'attività sportiva, anche molto amatoriale intensa, o intensa. Ci sono degli atleti proprio stellati che hanno ormai dimenticato da anni la bistecca, ma questo lo prendo spunto, Deborah, per leggere i messaggi di chi ci scrive: io mangio carne tutti i giorni e vivo sano, alla faccia vostra, ma io sono contenta, nel senso che noi non vogliamo convincere nessuno. Però, dottor Pelosi dice che la carne, certo, sicuramente un consumo eccessivo, dottor Pelosi, di carne, una dieta troppo ricca di proteine animali, non è salutare per la salute, per il nostro benessere. Assolutamente. Ecco, questo poi di più, ecco, poi da decine di studi. Però libertà, 800 24 00 24, ma chiamateci. Esatto, e senza fare nessuna maratona, basta comporre il numero verde, e direi che adesso posso molto rapidamente, senza fare alcuno sforzo competitivo, presentare anche il prossimo ospite che ci accompagnerà per la questione denari. Saluto e ringrazio, un ritorno, quello di Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Bazzana, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, la stavamo aspettando, esatto, come si dice. Non so se lei... Io intanto voglio subito chiarire, io sono un maratoneta carnivoro. Vede? Eccolo, ecco. Allora voi ve la giocate. Pure naturalmente frequentando il mondo degli agricoltori, appunto magari di quelli che non allevano animali, maiali o mucche, insomma, ma esclusivamente si dedicano alla produzione, appunto alla coltivazione di ortaggi o verdura. E, Bazzana, peraltro adesso dobbiamo andare tra l'altro a ridare la linea alla regia perché c'è il giornale radio, ma ritorneremo con lei nella seconda parte del programma. Abbiamo evocato più volte questa mattina anche Campagna Amica per tutti gli ascoltatori che sollevavano la questione anche economica. Voi vi confrontate con prezzi alla produzione che sono sempre più rasoterra, al supermercato frutta e verdura invece costa, per chi non ha tempo di andare al mercato magari il sabato mattino, di frequentare Campagna Amica, i problemi del bilancio appunto sono più che evidenti. Un suggerimento veloce prima di approfondirlo nella seconda parte del programma, che per chi ha a cuore la questione economica naturalmente quando compra frutta e verdura. Ma si possono fare dei gruppi d'acquisto in modo tale da poter anche risparmiare rispetto al tempo, incaricando una persona per un gruppo di persone. Quindi le soluzioni ci sono, basta saperle, praticarle, e poi bisogna riuscire a far incrociare domanda e offerta, che alle volte è una cosa non così semplice. Certo, le criticità sono anche queste, prima le sollevava Romiti. Allora, intanto Nicoletta, ti lancio questa provocazione, prima o poi una puntata sui gruppi di acquisto solo su loro. Assolutamente, mi piacciono, perché vanno, esatto, comprano tante cose, si organizzano queste comunità di persone non solo per comprare frutta e verdura ma tanto altro. Ma adesso è tempo di, perché Carmelo si sbraccia, di dare la linea al nostro GR. Intanto restate con noi, nel frattempo chiamate. Cuore e denari. Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino! Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà! Ma che bontà! L'orario concilia anche un po'. Insomma, frutta e verdura. Questo è il tema che stiamo affrontando oggi, oltre che salutari possono anche essere una bontà, e a Cuore Denari stiamo proprio parlando di chi sceglie una dieta vegana o vegetariana. Ci stiamo anche chiedendo se queste scelte hanno un impatto nel mercato ortofrutticolo. È evidente, lo abbiamo raccontato appunto nella prima parte del programma, settore che ultimamente non se la passa benissimo. Allora, 800 24 00 24, il nostro numero verde a disposizione, così come i nostri esperti. Diteci se avete modificato il vostro stile alimentare, che posto occupano la frutta e la verdura nella vostra dieta, e diteci se cambiando stile alimentare qualcosa è cambiato non solo nella vostra salute, per quanto riguarda la salute e il benessere, ma anche nel vostro bilancio familiare. Spendete di meno evitando la carne, o forse paradossalmente spendete di più? 349-238-6666, potete mandarci anche i messaggi e seguirci, lo state facendo, su Facebook e su Twitter. Come sempre, ospiti di cuore e ospiti di denari. Adesso abbiamo avuto un passaggio del testimone per la questione denari, e con noi Lorenzo Bazzana, responsabile economico della Coldiretti. Abbiamo riepilogato un po' le puntate precedenti nella prima parte del programma. Bazzana, abbiamo ricordato anche le manifestazioni che il settore agricolo ha fatto la scorsa estate per denunciare lo stato di difficoltà appunto del settore. Molti agricoltori, anche per certe giornate, hanno abbandonato, tra virgolette, la campagna per andare a distribuire i prodotti delle loro produzioni, appunto, addirittura in spiaggia, oltre che anche a Montecitorio. Mi pare che ci sia stata questa iniziativa, come se i parlamentari non avessero abbastanza, ci mancava anche frutta e verdura gratis, ma è chiaro che era una provocazione. Oggi il punto di Coldiretti qual è? Insomma, quali sono le produzioni in maggiore difficoltà, come dire, economica, dove la domanda e l'offerta si incontrano a fatica? Ma noi dobbiamo distinguere due momenti diversi di questa lunga estate che si va, diciamo, concludendo in queste settimane. Prima abbiamo avuto una situazione meteo sicuramente non normale, perché abbiamo avuto un eccesso di precipitazioni, un andamento climatico che non ha favorito i consumi, che ha ostacolato molto la produzione e che, se vogliamo, in certi casi non ha neanche portato ad avere della frutta buonissima, perché ovviamente se manca il sole mancano anche i gradi zuccherini, e quindi in alcuni casi abbiamo avuto anche dei problemi di questa natura. Poi è venuto quello che è l'embargo russo, che ha complicato ulteriormente quella che è la situazione, e quindi con la chiusura di questa destinazione, che è una destinazione che per l'ortofrutta italiana vale una cifra che noi possiamo comunque orientativamente quantificare attorno ai 70-75 milioni di euro, come esportazione diretta, crea sicuramente dei problemi anche per gli effetti indiretti, perché ovviamente tutto quello che l'Italia direttamente o gli altri partner comunitari indirettamente non riusciranno a esportare in Russia, si verrà a riversare sugli altri mercati, compreso il nostro, creando poi dei problemi per evidentemente un equilibrio domanda-offerta che ne risulterà. Quindi dobbiamo aspettarci, visto che l'embargo russo è stato lanciato dal 7 agosto, dobbiamo ancora aspettarci delle tensioni sui prezzi, cosa vedranno al mercato e al supermercato i consumatori, Bazzana? Le tensioni sui prezzi che noi purtroppo, lo dico ovviamente all'origine dalla parte dei produttori, ci aspettiamo, non sono tensioni verso l'alto ma sono verso il basso. Però abbiamo già visto quest'estate che a fronte di prezzi delle pesche, delle nettarine che si assommavano a pochi centesimi di euro, siamo arrivati a 15-20 centesimi di euro, il consumatore di tutto questo non se n'è mai reso conto, perché comunque i prezzi hanno continuato a rimanere abbastanza mediamente elevati al dettaglio. Allora la preoccupazione è questa, sulla scorta anche di tutti i ragionamenti che sono stati fatti prima. Tutti ci dicono che la base della piramide alimentare oggi deve essere frutta e verdura. L'unico conforto che noi potremmo avere delle situazioni di mercato che portano al crollo dei prezzi all'origine è dire, verranno tempi migliori, intanto la gente paga di meno la frutta e la verdura, ne gusta il sapore, ne riscopre l'utilizzo, e quando poi i prezzi risaliranno un po' avremo anche noi, diciamo, un ritorno da questo tipo di situazione. Invece non c'è neanche questo tipo di conforto, perché se i prezzi al dettaglio rimangono troppo elevati è chiaro che certo. Chi fa una scelta di tipo quella che avete descritto voi, quindi sceglie di mangiare soltanto vegetali, ovviamente lo fa per una scelta ponderata e comprerà i vegetali. Gli altri purtroppo, e questo poi è la somma dei dati che ci danno come risultato finale il calo dei consumi, gli altri se ne stanno allontanando, vuoi per abitudini alimentari sbagliate, vuoi per discorsi di prezzi, vuoi per tante considerazioni. Insomma, per ragioni di cuore o di denari. Ma dottor Pelosi, torniamo proprio sulla quantità, sulla frutta e verdura che portiamo a tavola, quindi parliamo di porzioni. Ci sono degli ascoltatori che ci chiedono esattamente a quanto corrisponde una porzione. È un tema, è una domanda che ricorre ogni volta, tutte le volte che parliamo di frutta e di verdura, gli ascoltatori ci dicono ma aiutateci a quantificarla. E allora l'invito lo giro naturalmente a lei, dottor Pelosi. Sappiamo che è importante portare a tavola almeno 5 porzioni di frutta e verdura al giorno. Che cosa significa in termini di quantità per una persona che segue una dieta, la dieta mediterranea, una dieta equilibrata, vario, onnivora, in cui sono presenti anche proteine animali, e come cambia invece la quantità per chi invece segue una dieta vegetariana o vegana, se la quantità cambia? Allora, la quantità tra la dieta vegetariana e vegana e la dieta onnivora tendenzialmente non cambia, a meno che non ci siano problemi particolari legati a colon irritabili. Più frutta e verdura vengono assunte, in particolare la verdura, meglio è, perché le sostanze contenute in questi alimenti, sono ancora largamente sconosciute, ma l'effetto finale di questi alimenti è assolutamente positivo per il nostro benessere e per la nostra salute. Questi alimenti prevengono alla base la maggior parte delle patologie cui la popolazione occidentale è esposta, patologie degenerative, patologie cardiovascolari, patologia oncologica. Quindi è raccomandabile mangiarne il più possibile. Per venire a rispondere più nel dettaglio invece alla domanda precisa, queste 5 porzioni, ogni porzione equivale a circa 100 grammi del prodotto pulito, quindi una volta eliminata eventualmente la buccia e il torsolo, se si sta parlando della frutta, o le parti che non vengono mangiate. Certo. Pure. Per i bambini? Per i bambini le porzioni tendono ad essere ridotte proporzionalmente all'età del bambino stesso. Come dicevo, in ogni caso, quando il bambino si avvicina all'alimentazione dell'adulto, cioè sopra i 2 anni di età normalmente, le porzioni vanno quantificate sulla base del suo peso, considerando però che il suo fabbisogno può essere fino a più del doppio rispetto a quello di un soggetto adulto. Quindi, se vogliamo dare un peso intorno ai 50 grammi come partenza. 800 24 00 24, spazio ai nostri ascoltatori e spazio anche agli ascoltatori di Cuore Denari che sono sportivi e che si possono dividere. Abbiamo il dottor Bazzana, maratoneta, sì, onnivoro, e abbiamo il dottor Pelosi, maratoneta, io cosa posso dire, flexitariano, vegetariano? Ai tempi delle maratone forti, vegetariano. Ah, quindi addirittura sceglie proprio il periodo in cui si allena intensamente per seguire l'alimentazione vegetariana. Assolutamente, perché consente un miglior recupero rispetto allo sforzo. Certo. Lo sforzo, e in particolare la preparazione alla maratona, ma gli sforzi di lunga durata determinano la produzione di molti radicali liberi e il consumo del glicogeno muscolare. Quindi il miglior reintegro sia attraverso l'assunzione dei cereali e dei legumi, che sono ricchi di tutte le proteine necessarie, ma anche di grandi quantità di carboidrati a bassa velocità di assorbimento, e in più sono ricche la frutta e la verdura, che si associano con questi elementi, di antiossidanti naturali, che quindi consentono il ripristino dell'equilibrio omeostatico una volta che si è eseguito uno sforzo particolarmente intenso. Lorenzo Bazzana, lei invece quando si allena come si alimenta? Posso chiederlo? La base è frutta, verdura, cereali sicuramente, carboidrati complessi, quello è la base, la benzina per poter andare. È chiaro che la mia dieta è un pochettino più variata, nel senso che io non mi privo assolutamente di proteine di origine animali. Mi piacciono i formaggi a pasta dura, la carne la mangio almeno 3 volte alla settimana, uova, pesce non mancano, per cui direi che io cerco di variare il più possibile utilizzando tutto lo spettro di quelle che possono essere le fonti di carboidrati e di proteine, sia animali che vegetali. Dottor Pelosi, faccia il medico, non il maratoneta. Il dottor Bazzana ci ha dato uno schema del suo stile alimentare che mi sembra molto corretto, anche aggiungo però un'altra cosa, che io non faccio uso di nessun tipo di integratore artificiale, cioè io di integratori salini o cose del genere non utilizzo niente, mi mangio mezzo melone, mi mangio la fetta di anguria, preferisco una integrazione naturale appunto con frutta e verdura. Dottor Pelosi, un commento anche per rispondere a chi ci chiede se seguendo una dieta vegetariana o vegana e praticando attività sportiva occorre integrare e utilizzare quindi dei prodotti a integrazione. Direi assolutamente che l'integrazione non è necessaria seguendo un'alimentazione, una dieta di tipo vegetariano. Per quello che riguarda la dieta vegana, l'integrazione è necessaria nei confronti della vitamina B12, che non è presente negli alimenti vegetali. Questo tipo di raccomandazione è valido sia per lo sportivo che per il non sportivo, nel senso che gli alimenti, il consumo della vitamina B12, indipendentemente dall'attività fisica, c'è sempre e di conseguenza va ripristinata con degli integratori o con dei cibi fortificati come ne sono presenti sul mercato. Allora, vi voglio raccontare una cosa, che il prossimo 9 novembre a Milano, al Parco Forlarini, ci sarà la prima corsa podistica vegetariana non competitiva in Europa e non solo, con punto di ristoro vegan naturalmente. Gli organizzatori dicono che in questo caso questa corsa, questa camminata longa del buon benessere non è fatta per raccogliere fondi per curare malattie, ma si propone di sensibilizzare al cambio dello stile di vita, sostenendo che prevenire evita di curare. Per sapere di più potete andare sul sito della società vegetariana www.societavegetariana.org e allenarvi nel frattempo. E certamente magari integrando i sali che perdete nella modalità in cui Lorenzo Bazzana ci ha indicato. Allora 800 24 00 24, fra poco anche qualche naturalmente buon suggerimento per la cucina da parte del nostro chef stellato, perché abbiamo parlato prima di Alain Ducasse, ma noi anche ne abbiamo naturalmente di tutto rispetto. Volevo sentire l'osservazione di Marisa da Torino, che ritorna un po' sugli aspetti economici della spesa dell'ortofrutta. Marisa, buongiorno. Buongiorno. Oh, buongiorno Deborah, te la volevo anche ringraziare per la compagnia che mi ha fatto quest'estate, perché ha continuato e ha fatto anche Focus Economia. Eccola. Buongiorno Nicoletta. Grazie. Però lo dico, sì, siccome ho fatto un po' meno ferie quest'estate, poi qualche giorno mi assenterò e vi lascerò con Nicoletta fra un po'. Però, vabbè, siete proprio in gamba. Grazie. Grazie. Allora, dico una cosa, visto che avete lì i due, mi pare, della campagna amica, i coltiretti, sì, allora io sovente per la frutta e la verdura, siccome mi interessa molto il gusto, perché altrimenti già non sono brava, Marisa, per la verdura. E che differenza c'è? Non sono portata per la verdura, quindi almeno devo avere gusto. A proposito dei pomodori, ecco, è vero che al supermercato vendono quelli dell'Olanda e io delle volte glielo chiedo, ma perché dall'Olanda li prendete quando c'è? Però c'è da dire che quando ci sono i mercatini, e a Torino ce ne sono molti durante l'anno, i mercati locali, ma di domenica quelli gestiti dalla Coldiretti o dalla... Confagricoltura, sì, le altre associazioni, ognuno ha la sua insegna. Ecco, sì. Sicuramente sono buoni, però... Non mi dite che, non mi dicono quei signori che i prezzi sono più bassi. No, ma Marisa, anzi, lì sono altissimi, addirittura più che da Italia. Certo, tutto ma detto. D'altronde chi riesce a collocare. Scusi Deborah, e finisco, in più non danno lo scontrino, non glielo dice una che c'è andata una volta ed è successo così, è una che va ma lei, e non vada ma, più se non ma, le danno lo ma scontrino. Ma lei lo chiede, Marisa, si mette lì di punta e chiede? Sì, infatti lo chiedo, e poi mi fanno finta, adesso viene la mia signora, viene quell'altra, finché rimango come una cretina e alla fine mi sembra di essere proprio esagerata, no? Un minuto a Lorenzo Bazzana, perché poi andiamo all'altro ospite, il tema un po' è delle quantità, adesso la questione dei prezzi, sullo scontrino stendiamo il velo, lasciamo stare, poi sta anche a noi. Non è un tema così scabroso, perché comunque le normative sono differenti, nel senso che un'azienda agricola in vendita diretta, che vende i suoi prodotti, ha delle normative a cui deve assolvere, che sono diverse dal commercio di tipo normale. Quindi non deve avere lì magari il registratore di cassa, però magari il documento, quello, la piccola fatturina cartacea, non deve rilasciarla? No, deve fare un registro di corrispettivo in cui appunto andrà a indicare cosa ha venduto in quella giornata. Ripeto, ma sono normative differenti, per cui non si possono applicare tu le normative che uno si aspetterebbe di trovare. Allora, i prezzi, è normale che lì costi un po' di più, perché il potere di trattativa con i supermercati è diverso. No, non è necessariamente quello. Cioè, no, le quantità. Noi dobbiamo sempre fare il confronto tra beni omogenei. Cioè, sarebbe come se io dovessi dire a un concessionario di auto, ma perché la 500 costa, di meno o costa di più di quello che può essere, non so, una Mercedes. Cioè, sono due macchine, va bene, ma sono due macchine profondamente differenti. Allora, qui noi ci troviamo dei prodotti agroalimentari e non li possiamo, assolvere o comunque liquidare velocemente dicendo pomodori. C'è pomodoro e pomodoro, c'è pomodoro che ha una resa, una bontà. Facciamo così, guardi Bazzana, la devo interrompere perché dobbiamo sentire l'ultimo ospite, faremo una puntata solo su questo. Solo sul pomodoro. Venduto al supermercato e quello del mercatino di campagna amica. Andiamo a chi? Allora andiamo al nostro Stefano Polato, che è in linea con noi. Stefano, benvenuto e bentornato. Ciao, buongiorno a tutti. Senti Stefano, noi abbiamo 2 minuti di tempo, sono davvero pochi, ma io aprirei, dedicherei proprio 2 minuti del nostro cuoco. Assolutamente. Per dare delle indicazioni ai nostri ascoltatori e magari qualche suggerimento, qualche alimento rubato alla cucina vegetariano vegana da portare sulle nostre tavole. Ok, allora innanzitutto volevo fare un piccolissimo preambolo. Mediamente le persone, almeno quelle che frequentano il mio locale e alle quali ho dedicato un menù completamente vegano, sono molto preparate a livello alimentare, hanno una consapevolezza alimentare molto più accentuata e questo è una cosa positiva. Nel senso, quindi vedi che anche lui è un po' come Ducasse. Se dobbiamo partire qualcosa da questo mondo, questo è uno dei punti fissi, nel senso che sono molto più preparati e anche interfacciarsi con queste persone è molto positivo. È un arricchimento. Esatto. In secondo luogo sono molto più attenti all'ambiente, perché molto, molto spesso fanno anche questa scelta per in funzione di un concetto morale o comunque di salvaguardia dell'ambiente. Quindi anche qui il vegano o il vegetariano è abituato a consumare frutta e verdura di stagione, a seguire la stagionalità dei prodotti e soprattutto a non buttare via niente. Però le foglie di un broccolo vengono buone per fare una centrifuga. E questa è una prima ricetta. In 30 secondi un'altra ricetta, perché il tempo scappa. Sì, allora io adesso diciamo che vanno un po' di moda e piacciono anche i più piccoli, quindi può essere un escamotage anche per far mangiare questo tipo di piatti ai più piccoli, sono i burger a base di legumi. Su Facebook metteremo la ricetta dettagliata nel pomeriggio, comunque un burger di fagioli cannellini abbinati a del bulgur, velocissimo da preparare, basta schiacciare con una forchetta i nostri fagioli, amalgamarli al bulgur cotto. Se necessario aggiungiamo un po' di pan grattato e possiamo aggiungere quello che vogliamo, siano esse spinaci o siano esse verdure spadellate, e lo adagiamo su una bella insalata. Quindi è un burger vegetale vegano. La ricetta, come ha detto Stefano Polato, sul nostro Facebook oggi pomeriggio. Ringraziamo i nostri ospiti. Grazie a tutti, noi ritorniamo domani naturalmente. A tutti buona giornata. E denari.